America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. We are behind and she has tremendous advantages. She has a former president, happens to be her husband, the current president and first lady, vice president, all much more popular than she can hope to be. Avete sentito Kellyanne Conway, che è il manager della campagna di Trump, che in qualche modo ammette che la situazione per il suo candidato non è facile. Dice, beh, siamo indietro nei sondaggi, Clinton ha molti vantaggi, per esempio appena investito 66 milioni di dollari in pubblicità soltanto in settembre, un marito che è un ex presidente, l'appoggio di Obama, della First Lady, e questo si traduce in che cosa? In sondaggi che danno un vantaggio a Hillary piuttosto forte, 12 punti su Donald Trump, secondo ABC News Washington Post, la media di Real Clear Politics è più 5,9%, ma oggi voglio dedicare la copertina del giorno a quella che è stata la notizia storica dal punto di vista del business, una notizia che interessa dal punto di vista strategico e anche dal punto di vista dei consumatori. We have breaking news. One of the biggest media mergers ever, AT&T, moments ago, announcing reaching an agreement to merge with Time Warner. Avete sentito la notizia dell'accordo AT&T? Time Warner, grande acquisizione, e devo dire sono 85 miliardi di dollari per che cosa? Beh, per una televisione. Potrebbe sembrare un annuncio antistorico, adesso esagero dicendo per una televisione, ma il senso è quello, è la provocazione. Ma l'accordo per l'acquisto della Time Warner da parte della AT&T conferma un messaggio industriale e al consumo molto centrale, cioè la punta più avanzata della frontiera dell'infocom non è quella dei social media, ma appunto quello della televisione. Di quel vecchio arnese che fra i media tradizionali è riuscito a sopravvivere all'assalto dei grandi social network imponendosi con content e distribuzione. E poi è anche il mezzo che risponde in modo più flessibile alla domanda sempre più esigente di quello che viene chiamato il consumatore non lineare, cioè quel consumatore che si sposta da un mezzo all'altro ma cerca lo stesso content. Ecco, e questo secondo me è il senso dell'operazione di 85,4 miliardi di dollari, ben 108 miliardi incluso il debito fra la AT&T, che è la grande casa della telefonia americana, e la Time Warner, marchio storico della comunicazione e della produzione televisiva. Perché questo? Perché nell'era di una stabilizzazione del mercato wireless, dove AT&T è il secondo operatore nazionale, e nel momento in cui c'è uno sviluppo sempre più competitivo sul fronte del content, questa operazione potrà dar vita, sempre che poi sia approvata, perché vedremo ci sono parecchie resistenze dal punto di vista della politica, si dice che si va a creare un nuovo conglomerato contro l'interesse del consumatore. Vi dicevo, nel momento in cui tutto andasse a posto, ci sarà un nuovo colosso in questo settore, colosso in grado di competere soprattutto con chi si era mosso in anticipo lungo questa stessa strada. Ladies and gentlemen, Tom Hanks. Yes, I'm Tom Hanks, and it's so good to be hosting SNL for the ninth time. Ecco, avete sentito un piccolo audio di Saturday Night Live, grande trasmissione televisiva immortale sulla rete NBC, e tra l'altro questo è uno spezzone di sabato scorso con Tom Hanks, che per la nona volta dice sono qui sul vostro palcoscenico. E proprio la NBC si era già fusa con la Universal, e poi che succede? Che questo, che sembrava un enorme conglomerato della comunicazione, è stato acquistato al 100% nel 2013 da Comcast, che è il più grande operatore via cavo americano, è un grande distributore. Comcast 26 milioni di clienti. L'AT&T, vi dicevo, è concorrente diretto di Comcast nella fornitura di accessi internet ad alta velocità. Comcast attraverso il cavo, mentre AT&T lo fa con la sua rete tradizionale attraverso la rete cellulare. Ecco, a questo punto AT&T chiude il cerchio, perché ai due sistemi distributivi primari, anche quello con DirecTV e quello via internet, aggiunge uno dei produttori di content più prestigiosi in America, perché dentro Time Warner ci sono CNN, TNT, HBO e Warner Brothers, che è la leggendaria casa di distribuzione e produzione con gli studios a Hollywood. Nel portafoglio Time Warner, insomma, ci sono soprattutto le televisioni, e il gruppo era molto attraente per il mercato. Pensate che la Apple ha ammesso che era interessata, chissà che non faccia un rilancio, però era stata anche interessata la 20th Century Fox di Murdoch, che aveva cercato di acquistare il gruppo 2 anni fa. Pagava, offriva $85 per azione. L'amministratore delegato di Time Warner, Jeff Bukas, rifiutò l'offerta. Fu naturalmente attaccato, ma questa è una follia, dovevi accettare. Eppure Buick sapeva di avere nel piccolo schermo una grande fortuna da vendere, e il tempo, devo dire, gli ha dato ragione, visto che oggi incassa per i suoi azionisti $107.5 per azione. Sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più né più difficile, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @ Mario Platero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Vi ho detto, ci sono alcune critiche alla creazione di questi colossi. Bruce Springsteen, ispirandosi a questi multi-channel, multicanale, aveva scritto una canzone di grande successo. E dunque dedichiamola a lui e dedichiamola a questa merger. Bruce Springsteen's 57 Channel. Channels and nothing on. 57 canali e nulla da vedere. I bought a bourgeois house in the Hollywood Hills with a trunk load of $100,000 bills. Man came by to hook up my cable TV. We settled in for the night, my baby and me. We switched round and round till half past dawn. There was 57 channels and nothing on. 57 channels and nothing on. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!